Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona domenica a tutti, bentornati a Magazine 24. Anche quest'oggi, anche questa domenica, vediamo alcune segnalazioni dalle riviste, dai settimanali, dai mensili italiani e stranieri, qualcosa di curioso, qualcosa di interessante, argomenti magari ricorrenti tra le varie testate. Voglio cominciare facendo qualcosa magari di un po' inatteso, voglio cominciare parlando di televisione. Certo, parlare di televisione alla radio sembra un po' un controsenso, ma l'evento ci sta tutto. Non so quanti di voi sappiano che Beautiful sta per compiere 20 anni, cioè 20 anni di messa in onda. Naturalmente la soap opera tra le più popolari, forse la più popolare, entra nel Guinness dei primati a questo punto. È in onda in Italia appunto dal 1990. Da dove ho preso questa segnalazione? Beh, da Sorrisi e Canzoni TV, naturalmente, che dedica alla ricorrenza, è il caso di dirlo, una doppia pagina. Ci segnala che le vicende dei Forrester appassionano ogni giorno 35 milioni di persone nel mondo. Naturalmente queste vicende vanno in onda tra l'altro anche la domenica, adesso passando nei canali del digitale terrestre per le regioni dove è già disponibile, dove è già avvenuto il passaggio. Nell'articolo di Maria Giulia Comolli, che accompagna appunto questa segnalazione, si spiega che effettivamente il sottotitolo di Beautiful potrebbe essere Yes We Can, non per nel senso in cui naturalmente lo dice l'attuale presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama, ma perché a Beautiful è possibile di tutto. C'è gente che si è sposata e divorziata una decina di volte, come il personaggio di Brooke Logan, neonati che in una manciata di anni diventano donne adulte molto sexy, ci sono poi anche delle, in questi giorni segnala una cosiddetta cougar story, cioè una storia d'amore tra una donna attempata e un uomo molto più giovane di lei. La soap festeggia tra pochissimi giorni, il 4 giugno, i 20 anni di messa in onda in Italia. La prima messa in onda di Beautiful in Italia fu su Rai 2, poi passò su Canale 5 e naturalmente poi anche sui canali digitali. Via via parlano poi i protagonisti in questo articolo di Maria Giulia Comolli. Una delle attrici dice: in fondo Beautiful è una storia di sentimenti che in qualsiasi modo continua a funzionare nonostante appunto tutte queste contorsioni della sceneggiatura e della vicenda che si addipana sempre di più. Quindi Beautiful che compie 20 anni è a suo modo un anniversario da ricordare. Così come compie 30 anni invece una trasmissione televisiva che non c'entra nulla, ma davvero nulla, con gli Stati Uniti d'America, ce lo ha ricordato Panorama. Panorama questa settimana ci segnala che si va al 30° anno di messa in onda del Processo del Lunedì. Ora, il Processo del Lunedì, come sapete, è una trasmissione che ha avuto un grandissimo successo, specialmente sui canali Rai, poi attualmente viene trasmessa su Italia 7 Gold, naturalmente con delle percentuali un po' inferiori a quelle che si vedevano nei canali Rai. Per celebrare in qualche modo il 30° anno di questa formula, Andrea Marcenaro su Panorama presenta una lunga intervista a Aldo Biscardi, il giornalista che ha inventato questa trasmissione, ha inventato questa formula e che è appunto arrivata alla 30° edizione. Tra l'altro dice lo stesso Biscardi che il suo Processo il Lunedì, trasmesso ora su Italia 7 Gold, ha portato quella televisione a uno share altissimo, facendola diventare l'ottava TV italiana per importanza. La mia trasmissione, sempre sono parole di Biscardi, è al 30° anno di vita, è un record mondiale. Le ricordo soltanto che il grande Maurizio Costanzo è arrivato a 25, il grande David Letterman è fermo a 24 anni. L'idea del processo, spiega sempre Biscardi in questa intervista, si deve a Gianni Rodari che scrisse un giorno, Biscardi affronta le tematiche del calcio come se si trattasse di un processo, da lì appunto poi l'idea. Dicono che il processo fosse un'idea di Enrico Ameri, chiede Marcenaro, e che lei gliel'abbia rubata. Dice no, non è affatto così, l'ho presa appunto da Gianni Rodari. Dicono che truccasse il moviolone, era un aggeggio che spezzettava in modo assolutamente maniacale qualsiasi sequenza avvenisse sul campo di calcio. La risposta di Biscardi è netta: è un marchingegno che è tecnicamente impossibile da taroccare, l'abbiamo comprato in Israele, ce lo chiese pure il Vaticano per l'attentato al Papa. Quindi in questo questa voglia anche della frase ad effetto, devo dire, si riconosce parecchio di Biscardi per chi ha seguito e segue tuttora la sua trasmissione. Vi segnalo, così come lo segnala anche Marcenaro su Panorama, che è in uscita proprio un libro di Biscardi che si chiama Se non c'ero io. Se non c'ero io sta a significare, se non c'ero io, in qualche modo a inventarmi questa formula di calcio parlato, come spesso si usa dire. Se non c'ero io, evidentemente, gli chiede Marcenaro, in quel caso che fine avremmo fatto? La risposta di Biscardi: non peggiore. E quindi in qualche modo non accetta di essere accusato di aver commesso qualcosa di brutto, qualcosa di grave, avendo inventato il processo del lunedì. Respinge decisamente questo tipo di accusa. Restiamo su Panorama, ma veniamo a una cosa altrettanto di moda, anzi in questo momento decisamente molto più di moda forse del processo del lunedì, e che però comincia ad assumere dei contorni preoccupanti. Stiamo parlando del botulino, perché sempre su Panorama Silvia Grilli ci segnala con un titolo molto secco: il botulino è il burka dell'Occidente. Perché? Perché, come si spiega, è un tipo di trattamento estetico che conquista sempre più donne, ma le fa diventare anche uguali, inespressive e finte. Per evitarlo c'è addirittura un movimento che sta facendo proseliti, il movimento No Botox. Tra l'altro una foto di Carla Bruni prima e dopo il trattamento sembra dare argomenti molto solidi a questo movimento No Botox. Ma la parte forse più interessante dell'articolo, direi senza forse, è la diffusione di questo trattamento estetico presso le giovani e le giovanissime. Tra l'altro ci sono anche delle considerazioni molto generali sulla capacità di mostrare anche in modo senza vergogna, dimostrare in modo tranquillo i segni dell'età. Non c'è d'altra parte niente di cui vergognarsi nel fatto che il tempo passi, ma nel corso di una ricerca ci sono state due psicologhe, ad esempio, che ad Harvard hanno segnalato che quando una donna non si piace, nel 16% dei casi si rifiuta persino di andare a un colloquio di lavoro, nel 13% si rifiuta di andare a scuola. L'autostima è estremamente compromessa, dice invece uno psicanalista, Luigi Zoia, però il ricorso al botulino non è, sono sempre parole di questo psicanalista sentito da Silvia Grilli, non è un modo per gratificare il partner, quindi non è un modo per piacere di più ad altri, ma invece è un modo per gratificare se stesse, è la difficoltà ad avere una personalità autonoma. E dietro questo c'è però un problema più profondo, una società che incoraggia la non crescita e un mercato che offre risposte immediate alla mancanza di identità. Tra l'altro il ricorso alla chirurgia estetica sembra essere un po' un escalation, perché, come si legge sempre nell'articolo della Grilli, dopo le iniezioni di tossina botulinica o di acido ialuronico, le signore poi chiedono di più, chiedono interventi sul corpo come la mesoterapia per ridurre la cellulite e ancora altro. È un po' un circolo vizioso. Bisognerebbe, segnalano i medici, avere accanto uno psicologo che indirizzasse le signore a in qualche modo non esagerare. Ma quello che poi si sente dire, e viene riferito appunto dalla Grilli, le signore si chiedono: resteranno i lividi, ma tanto mio marito non se ne accorge, non mi guarda neppure, io quello che sembrano farlo per le amiche, che invece si accorgono subito del cambiamento. Allora, in considerazione anche del possibile rischio che può avere il diffondersi indiscriminato di questo tipo di trattamenti anche tra le giovanissime, che è un'altra parte dell'articolo di Silvia Grilli. Vi segnalo invece due opinioni controcorrente, l'una dell'attrice Kate Winslet, che ha detto: ho delle rughe molto evidenti, ha detto al mensile americano Harper's Bazaar, quando guardo le locandine dei miei film dico sempre: mi avete ritoccato la fronte, potete farla tornare com'era? Preferirei che la gente dicesse sembra più vecchia anziché sembra paralizzata. E questa è la battuta della Winslet, molto bella. Devo dire, la battuta invece che viene recuperata come chiusura dell'articolo di Silvia Grilli su Panorama da Anna Magnani. Anna Magnani è nota perché si raccomandava al truccatore che la stava preparando per le scene: non togliermi neppure una ruga, le ho pagate tutte care. Allora, dalla diffusione del Botox, del ricorso al Botox, al trattamento estetico anche in età diciamo che non giustifica questo tipo di ricorso, passiamo a un'altra diffusione che viene segnalata invece da Famiglia Cristiana, quella del ricorso al gioco. Cominciamo a vederla prima di fermarci un momento per le informazioni sul traffico. L'inchiesta presentata da Famiglia Cristiana si intitola significativamente Generazione Gratta e Vinci. Secondo un'indagine di Nomisma, quasi il 70% dei ragazzi tra i 16 e i 19 anni non sa resistere. Le lotterie istantanee sono al primo posto, seguite da Super Enalotto e Lotto. Le regioni dove si gioca di più sono quelle del sud, ma i rischi sono tanti. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Stavamo parlando della diffusione del gioco anche d'azzardo tra i giovanissimi, cioè ragazzi tra i 16 e i 19 anni. Generazione Gratta e Vinci, il titolo dell'inchiesta, vi dicevo, riportata su Famiglia Cristiana di questa settimana. L'inchiesta è firmata da Renata Maderna, Maria Gallelli, e prende le mosse da questa indagine svolta da Nomisma, che ha coinvolto 8.342 giovani di età compresa tra i 16 e i 19 anni, frequentano le classi quarte e quinte delle superiori, e la percentuale di chi tra questi ha tentato la sorte almeno una volta è del 68,2%. C'è un rapporto poi più complessivo, sempre elaborato da Nomisma, su gioco e giovani. I dati sono questa volta del 2008, abbiamo tutti i motivi per supporre che questi dati vadano ritoccati al rialzo. Il settore dei giochi pubblici ha raccolto 2008 47,5 miliardi di euro, una cifra pari al 3% del PIL. L'incremento era stato del 13% sull'anno precedente. La domanda è: ma se la metà delle madri e dei padri nostrani non si trattengono dal giocare al lotto, giocare al gratta e vinci, eccetera, i loro figli saranno in grado di farlo? Certamente no. E allora, 47% sono gli studenti che hanno giocato in danaro negli ultimi mesi. Ci sono stati 550.000 minorenni che hanno tentato la fortuna con giochi che promettono vincite, e il 34% di coloro che giocano predilige il gratta e vinci e le lotterie istantanee. Poi, con percentuali decisamente più basse, le scommesse sportive, il lotto e il super enalotto, ma qui parliamo del 17% e del 14%. Fa più riflettere la cifra media mensile che si indica come destinata al gioco, si parla di 50 euro. Perché si gioca? Beh, si gioca naturalmente per la speranza di vincere soldi, speranza che è molto più forte tra coloro che giocano abitualmente, un po' più bassa tra coloro che invece abitualmente non giocano. Chi gioca abitualmente mette questa motivazione al primo posto, rispondono così il 60% degli intervistati, sembrano persino pochi. Il gioco come perdita di denaro è comunque molto ben avvertito anche dai giocatori, perché ben il 34% riconosce che in questo tipo di attività c'è una perdita di denaro, quindi un su tre è consapevole di questo. Questo valore si colloca al di sopra di chi lo ritiene invece un puro divertimento, che è del 32%. Seguono poi altre motivazioni. Quali sono allora i giochi più gettonati? Vi do qualche indicazione. già uno su due, più di uno su due per il Gratta e Vinci, poi c'è un 40% per il Superenalotto, il 26% il Lotto e poi via via scendere, scommesse sportive in agenzia il 21%, le lotterie nazionali il 20%. Chi non gioca? Ecco, perché poi giocando così tanto gli altri, ci si chiede anche per quali motivo quelli che non giocano abbiano fatto questa scelta. Beh, il 47% degli interpellati ha risposto non mi interessa, il 37% non ho soldi da buttare, il 28% non mi diverte. C'è però una percentuale piccola ma significativa, il 6,5%, che alla domanda ma perché lei non gioca, tu non giochi, trattandosi di ragazzi molto giovani, ripeto tra i 16 e i 19 anni, un 6,5% ha risposto in realtà ho paura di giocare troppo, quindi una sorta di freno preventivo per evitare poi di essere travolti in qualche modo da questo bisogno, da questa voglia di giocare. Più in là si avverte ancora che la percentuale degli studenti che dichiara di aver giocato in denaro almeno una volta nell'ultimo anno è aumentata tra il 2008 e il 2009 dal 40 al 47%, naturalmente l'aumento maggiore è stato riscontrato fra le ragazze, tra l'altro non sembrano funzionare neanche i divieti, perché ci sono comunque 550.000 minorenni che hanno giocato d'azzardo, risultano aver giocato d'azzardo. Queste le segnalazioni di Renata Maderna e Maria Gallelli su Famiglia Cristiana di questa settimana, sulla diffusione del gioco tra i giovanissimi. Cambiamo decisamente argomento, passiamo a tutt'altra vicenda, è quella che invece ci segnala l'Economist, come sta cambiando la lingua, non questa volta di qualche paese in particolare, ma potremmo dire del mondo intero. Perché? Perché un signore che si chiama Robert McCrum ha pubblicato un libro che viene recensito appunto dall'Economist di questa settimana, in cui ha coniato un termine che è globish, come la lingua inglese è diventata il linguaggio del mondo. Globish, se volessimo provare a tradurlo con un termine italiano, potrebbe suonare come globese, cioè una parola che tiene conto sia di inglese sia di globale. E perché effettivamente l'inglese abbia avuto così tanto successo è motivo di indagine tra i linguisti, tra gli studiosi di queste materie, perché effettivamente c'è stata ha soppiantato anche lingue che erano comunque molto diffuse a livello diplomatico, a livello scientifico, come il francese o il tedesco. Ma questo proprio ricorda il volume di Robert McCrum, che dice passo a passo l'inglese ha rimpiazzato il francese dalla diplomazia, il tedesco dalle scienze, e la capacità economica prima dell'impero britannico, poi degli Stati Uniti d'America, sono solo una parte della spiegazione, perché molto sta probabilmente anche nella natura del linguaggio stesso, che è molto elastico. E tra l'altro, però, nota sempre McCrum, l'inglese che oramai sta prendendo piede, e questo è appunto il globish, il globese, come vorremmo o potremmo tradurlo, è molto differente, molto diverso da quello che viene invece parlato abitualmente dai nativi, cioè da coloro che sono di lingua madre in inglese. Peraltro anche tra i vari nativi in lingua inglese poi ci sono profonde differenze, come si sa, tra appunto l'inglese parlato negli Stati Uniti, l'inglese parlato nel Regno Unito, quello parlato ad esempio in Australia. Ma c'è ormai una specie di linguaggio comune, che è quello poi usato spesso negli affari, in cui questo globese diventa più evidente, il linguaggio è molto secco, è enfatico, è ridotto all'essenziale. Questo è un po' il tratto del globese, del globish, che è la lingua che sta un po' servendo a diffondere, a mettere in comunicazione le persone nel mondo, non persone che parlano inglese, non lo parlano come prima lingua, e che trovano su questa piattaforma comune di una sorta di inglese essenziale il modo per comunicare tra loro. Se avete dovuto ad esempio confrontarvi con delle parole inglesi, c'è una parola inglese che oramai è diventata assolutamente italiana, marketing. In questi giorni il Sole 24 Ore vi propone in edicola il primo numero di una collana che si chiama proprio il marketing dalla A alla Z. Si tratta di una collana in cui vengono presentati i grandi classici del marketing. Questa prima uscita è dedicata proprio a Philip Kotler, il marketing dalla A alla Z, e la collana via via prosegue nelle prossime settimane. Il volume viene venduto in abbinamento con il nostro quotidiano, con il Sole 24 Ore, a 10,90 euro. Lo trovate in edicola in questi giorni. E allora, con questa segnalazione abbiamo concluso la puntata di oggi. Io vi ringrazio, vi auguro ancora una buona domenica. Grazie soprattutto a Pietro Lacorte questa mattina dal di là del vetro in regia. Grazie anche, come sempre, a Margherita Aina e a Vittoria Mussini che mi hanno aiutato a preparare anche questa puntata. Vi ricordo che potete riascoltare questo programma, così come tutti gli altri programmi di Radio 24, nonché trovare informazioni sulle nostre trasmissioni sul nostro sito. L'indirizzo è www.radio24.it. Buona domenica ancora e a risentirci sabato prossimo con Magazine 24.